Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Stefano è morto da più di 7 anni e per la prima volta in questa vicenda entra la verità. Una parola: omicidio. Non abbiamo mai smesso di crederci, né io né i miei genitori. Io devo ringraziare profondamente la Procura di Roma, perché mi ha fatto capire ed ha fatto capire a tutti che la giustizia può esistere anche per, può e deve esistere anche per gli ultimi. Si è parlato Ilaria Cucchi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi a proposito di questa svolta che c'è stata nella vicenda di suo fratello Stefano Cucchi. Vi ricordate naturalmente il geometra romano che fu arrestato per droga nel 2009 e poi morì in ospedale una settimana dopo. C'è una svolta da parte della Procura di Roma che accusa questa volta i carabinieri, che sono rimasti finora fuori dalle inchieste, accusa i carabinieri di omicidio preterintenzionale. Ne parleremo con l'avvocato della famiglia, il legale della famiglia Cucchi, e poi ci sarà anche un pezzo di intervista di Ilaria Cucchi fatta dalla nostra Raffaella Calandra. Parleremo di molte altre cose naturalmente, ed è di poco fa la notizia che è stato eletto un italiano presidente del Parlamento europeo dopo mi pare 38 anni che non c'era un italiano, è Antonio Tajani. Quindi ci occuperemo prestissimo anche di questo stasera Effetto Notte, dopo il racconto della giornata, come sempre poi i vari approfondimenti su tanti temi. Per le vostre osservazioni, per i vostri commenti, ci sono sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, ve lo ricordo, 349-238-6666. Ma intanto vediamo che giornata è stata. Antonio Tajani eletto presidente del Parlamento europeo. I disagi per il maltempo, interviene anche l'esercito in Abruzzo, bloccato da ghiaccio e neve, tecnici al lavoro sulla rete elettrica. Conti pubblici, è arrivata la lettera dell'Unione Europea che chiede all'Italia una correzione da 0,2 punti. Mattarella commenta, bisogna usare lo stesso rigore anche sui migranti. Brexit, a 7 mesi dal referendum, il discorso programmatico della prima ministra Theresa May, divorzio netto dall'Unione Europea e stop alla libera circolazione dei cittadini. Siria, pronto il piano del Pentagono per inviare più soldati, sarà presentato a Trump, l'obiettivo è accelerare la lotta all'ISIS. La vicenda di Stefano Cucchi per la morte del geometra romano, ora la procura accusa i carabinieri di omicidio. Roma, il tribunale respinge il ricorso sul contratto della sindaca Virginia Raggi, era eleggibile, e a di martedì dice di sé, rivoterei la sindaca Raggi e soprattutto le darei la possibilità del tempo, possibilità che è stata data a tutti gli altri sindaci. Dieselgate, primo smacco per Volkswagen in Europa, condannata da un tribunale tedesco a risarcire un'auto coinvolta nello scandalo dei dati sulle emissioni truccate. Sciopero differito al 23 febbraio, lo sciopero nazionale di 4 ore di tutte le società e compagnie del trasporto aereo. Nuova maturità dal 2018, per l'ammissione basterà la media del 6, non più la sufficienza in tutte le materie come richiesto ora. E a proposito della notizia giunta poco fa dell'elezione di Antonio Tajani eletto presidente del Parlamento europeo, ci colleghiamo con Sergio Nava. Sergio, buonasera. Buonasera, dopo 38 anni quindi un italiano siede alla presidenza del Parlamento europeo. Antonio Tajani popolare ha sconfitto il socialista Gianni Pittella con 351 voti contro 282, il tutto al termine di una lunghissima giornata. Tajani è prevalso solamente alla quarta votazione, quando c'è stato il ballottaggio a due tra i due maggiori votati. Decisivo per Tajani sia l'appoggio dei liberali, raggiunto nella notte quando appunto è stato siglato l'accordo e si è ritirato il candidato liberale Verhofstadt, sia soprattutto i 70 voti dei conservatori europei che hanno deciso di appoggiarlo dopo il terzo round di votazioni, e quindi gli hanno permesso di ottenere quella maggioranza a quel punto semplice rispetto a Pittella, per cui appunto Tajani è prevalso e sarà appunto per i prossimi 2 anni e mezzo presidente del Parlamento europeo. Grazie Sergio Nava, poi torneremo a parlarne, appunto perché si diceva sono 38 anni che non c'era un italiano alla presidenza del Parlamento europeo, poi ci occuperemo anche di questo derby che c'è stato fino all'ultimo tra due italiani, anche questo un caso eccezionale. Adesso però passiamo ai molti disagi causati dal maltempo in diverse regioni, in particolare però in Abruzzo. Nelle ultime ore 300.000 persone sono rimaste senza elettricità, 5.000 senza acqua, città, borghi sommersi dalla neve. L'Enel ha comunicato poco fa che per 100.000 è stata riattivata l'elettricità. In ogni caso il governo, rispondendo alla sollecitazione di alcuni sindaci, ha deciso l'intervento dell'esercito in Abruzzo. Teramo e Chieti, le zone più colpite, il freddo, il vento, la neve continuano a sferzare anche altre regioni della penisola, buona parte del sud. In Puglia un uomo è morto, assiderato nella sua auto nel Brindisino, probabilmente si era addormentato, e più tardi torneremo a parlare anche della situazione dovuta al maltempo. E parliamo adesso di conti pubblici. La Commissione europea ha inviato all'Italia la lettera con la richiesta di aggiustamento dei conti. Fonti del Ministero dell'Economia spiegano che lo scostamento è stimato in 2 decimi di punti di PIL, lo 0,2. Siamo in contatto con la Commissione, dicono dal Ministero. Nei prossimi giorni faremo le valutazioni del caso. Se, come e quando intervenire verrà deciso dal Governo a breve. Da Atene intanto arrivano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che dice: giusto che l'Unione Europea chieda ai Stati membri di avere conti in ordine, ma lo stesso rigore deve essere utilizzato anche quando gli Stati sono inadempienti sull'immigrazione e altri dossier. Lo stesso impegno, dice, ci sia per favorire la crescita e l'occupazione. A proposito di Europa, parliamo anche di Brexit, perché la prima ministra inglese Theresa May fa chiarezza sul percorso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Delivering a smooth and orderly Brexit. Un percorso regolare e ordinato, la Premier May lo specifica alla fine dell'intervento, quando ormai la strada è segnata. Uscita dal mercato unico, totale controllo delle decisioni da parte del Parlamento, ma in modo ordinato, appunto, senza salti nel vuoto, portando a casa un accordo di libero scambio alla pari. Yet I know there are some voices calling for a punitive deal that punishes Britain. So che da più parti si invoca un accordo punitivo per Londra, per scoraggiare chi vorrebbe seguire i nostri passi. Non sarebbe da amici, dice la May, che in un altro passaggio aveva già ammonito l'Unione, affermando che è stata la poca flessibilità delle istituzioni a portare alla Brexit. Non il rifiuto dei valori comuni, che restano gli stessi. Londra esce dall'Unione, ma non dall'Europa, per essere, o tornare a essere, una Gran Bretagna globale, più forte e prospera. Resta la collaborazione forte con i vicini europei sulla lotta al terrorismo, ma Londra riprenderà il controllo dell'immigrazione e si ritirerà dalla giurisdizione della Corte Europea di Giustizia. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la Siria. Il Pentagono è pronto a presentare al neopresidente degli Stati Uniti Donald Trump un piano per accelerare la lotta all'ISIS, piano che prevede anche opzioni militari come l'invio di ulteriori truppe da combattimento, centinaia di soldati in più statunitensi per rafforzare l'offensiva verso Raqqa. E dalla Siria alla Turchia. Ha ammesso le sue responsabilità davanti agli investigatori turchi l'Ubzeko arrestato ieri con l'accusa di essere il killer di Capodanno a Istanbul. Le sue impronte digitali corrispondono con quelle dell'attentatore che uccise 39 persone al nightclub Reina la notte del 31 dicembre scorso. E ora sulle notizie italiane, con la vicenda di Stefano Cucchi, la svolta che c'è stata per la Procura di Roma fu omicidio preterintenzionale e i carabinieri parlano d'attacco all'arma. Non è morto di epilessia, non è morto di fame e sete, non è morto di cause ignote, come pure è stato scritto negli atti. Quello di Stefano Cucchi è stato un delitto, un omicidio preterintenzionale coperto con falsi verbali e calunnie in aula, e ora 5 carabinieri sono chiamati a risponderne a vario titolo. 8 anni dopo la morte, dopo 4 processi, la Procura di Roma stabilisce che ad uccidere il giovane dopo il fermo furono schiaffi, pugni e calci che gli provocarono una rovinosa caduta. Insieme, scrivono i PM, alla condotta omissiva dei sanitari dell'ospedale. Si chiude così con un ribaltamento l'inchiesta bis aperta dopo le assoluzioni degli agenti penitenziari e dei medici, e ora, allontanata la prescrizione, i PM Pignatone e Musarò, dopo aver riletto perizie, sentito 40 carabinieri e attivato intercettazioni, puntano a riscrivere la storia della morte di Cucchi in un rapporto di causa effetto tra pestaggio e decesso. E se 8 anni dopo ancora non c'è un colpevole, anche perché c'era del falso nel verbale di fermo e in aula furono accusati ingiustamente agenti penitenziari. Finalmente, commenta la sorella Ilaria, ma per uno dei carabinieri indagati si tratta di un attacco all'arma. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi sentiremo anche il commento della sorella di Stefano Cucchi a questa dichiarazione di un carabiniere, e cercheremo anche di raggiungere il legale della famiglia Cucchi. Torniamo all'estero adesso per parlare di Donald Trump a 3 giorni dal giuramento. Venerdì entrerà alla Casa Bianca come il presidente eletto meno popolare negli ultimi 40 anni di storia degli Stati Uniti, Donald Trump. A dirlo è un sondaggio diffuso da Washington Post ed ABC, subito contestato oggi dal diretto interessato. è truccato come quelli prima delle elezioni, afferma il tycoon che a 3 giorni dal giuramento incassa il sostegno di Vladimir Putin. Trump ha ottenuto una vittoria convincente alle elezioni. Con lui i rapporti fra Russia e Stati Uniti si normalizzeranno, dice il presidente russo. Un riavvicinamento auspicato anche dal nostro ministro degli esteri. Alfano si dice anche convinto che, nonostante le sue ultime dichiarazioni, l'arrivo di Trump non minerà i buoni rapporti fra Stati Uniti ed Europa. Io sono convinto che i valori transatlantici usciranno consolidati dalle relazioni con l'amministrazione Trump. Trump è eletto da decine di milioni di cittadini abitanti della più grande democrazia del mondo. Noi dobbiamo avere fiducia nella più grande democrazia del mondo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il Forum Mondiale dell'Economia a Davos. Il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, ha dichiarato: piaccia o no, nessuno può tirarsi fuori completamente dalla globalizzazione, che, se è vero che ha creato nuovi problemi, non va però gettata, piuttosto adattata, e ha invitato a dire no al protezionismo e critica la frammentazione delle regole del commercio globale. La globalizzazione non è l'origine del problema. Dobbiamo dire no al protezionismo. Parola del presidente cinese Xi Jinping, per la prima volta al Forum Economico di Davos. Inoltre, l'accordo sul clima di Parigi va rispettato. Certo, le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sono un po' datate, ma nel complesso il sistema funziona. Esattamente il contrario di quanto finora dichiarato il presidente eletto americano Donald Trump, che attraverso un suo consigliere inviato a Davos, Anthony Scaramucci, fa sapere che se la globalizzazione ha fatto arricchire solo il 3% della popolazione, allora non ci interessa, e minacciano ritorsioni protezioniste. Posizioni più distanti tra Washington e Pechino non si potevano immaginare. La sfida è iniziata e l'Europa rischia di fare la fine del vaso di coccio tra i due giganti. Vittorio da Ronde, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Davos. Siamo alla politica italiana. Il Tribunale Civile di Roma ha respinto il ricorso sul contratto firmato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che disponeva una penale di 150.000 euro in caso di violazione del codice etico del Movimento 5 Stelle. La prima sezione ha respinto quindi il ricorso dell'avvocato Venerando Monello, sia nella parte in cui si chiedeva la nullità del contratto, sia sulla conseguente questione riguardante l'ineleggibilità della sindaca. Quindi, dice il Tribunale, era eleggibile. La Raggi sul blog di Grillo ha scritto: tanto rumore per nulla, dopo la batosta elettorale a Roma il PD ne subisce un'altra in tribunale. Poi torneremo a parlarne. E poi invece, per quanto riguarda il fenomeno del femminicidio, prende il via oggi nell'Aula del Senato l'esame del provvedimento che punta ad istituire la commissione monocamerale d'inchiesta contro il femminicidio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama. Il provvedimento, spiega la presidente del gruppo misto Loredana De Petris, è già stato approvato dalla commissione affari costituzionali e ha avuto un consenso pressoché unanime, vista la gravità che sta assumendo il fenomeno. E poi ha spiegato che tra i compiti della commissione ci sarà anche quello di capire come mai i centri antiviolenza non ricevano più i finanziamenti adeguati. Ci si vuole rendere conto, insomma, dice tra l'altro, se i mezzi a disposizione per fronteggiare questa emergenza stiano o meno funzionando. Occupiamoci anche dei desaparecidos. Sul caso Condor il Tribunale di Roma ha stabilito 8 condanne all'ergastolo e 19 assoluzioni. I giudici hanno anche prosciolto 6 imputati per morte. Sotto accusa c'erano ex capi di Stato ed esponenti delle giunte militari e dei servizi di sicurezza di Bolivia, Cile, Perù, Uruguay, in carica tra gli anni 70 e 80, che hanno fatto sparire o hanno torturato anche diversi italiani. Gli imputati erano accusati a vario titolo della morte, appunto, di 23 cittadini di origine italiana. E ora la clamorosa decisione di un tribunale tedesco che ha condannato Volkswagen. Volkswagen perde per la prima volta una causa in Germania sullo scandalo delle emissioni diesel. Un tribunale della Bassa Sassonia ha infatti condannato la casa automobilistica a rimborsare a un cliente l'acquisto di un'auto coinvolta nel Dieselgate. La sentenza arriva nel momento in cui un altro gruppo automobilistico, Fiat Chrysler, è sotto accusa negli Stati Uniti per le emissioni delle auto diesel. Un'inchiesta che ha acceso lo scontro tra la Germania, reduce dal caso Volkswagen, e l'Italia. Il ministro dei trasporti tedesco chiede all'Unione Europea che sia garantito il richiamo di Fiat 500 Doblò e Jeep Renegade per i controlli. Occasione per un chiarimento bilaterale potrebbe essere il forum Italia-Germania, in calendario domani a Berlino con la cancelliera Angela Merkel e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Fiat Chrysler archivia intanto un anno record in Europa, con le vendite superiori alla media di mercato. Lo scorso anno FCA ha visto crescere le immatricolazioni del 14%, più del doppio rispetto alla media di mercato, pari al 6,5%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi scioperi differito al 23 febbraio, per chi dovesse partire differito al 23 febbraio, lo sciopero nazionale di 4 ore di tutte le società e compagnie del trasporto aereo, l'hanno comunicato i sindacati. E c'è una novità per quanto riguarda invece la maturità a scuola. Alla maturità 2018, quindi l'anno prossimo, si potrà essere ammessi se si ha almeno la media dei 6, condotta inclusa, pensate. Dunque non sarà più richiesta la sufficienza in tutte le discipline come avviene ora, lo prevede lo schema del decreto sugli esami di Stato arrivato sul tavolo dei parlamentari. E poi una notizia che riguarda la salute: la depressione colpisce 350 milioni di persone nel mondo. La depressione, e oltre a compromettere lo stato mentale, è un potenziale pericolo anche per il corpo. La depressione pesa infatti sul cuore, così come colesterolo e obesità, è legata come causa principale a circa il 15% dei decessi per malattie cardiovascolari. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Aterosclerosis. Per chiudere c'è il calcio, la Coppa Italia. Dario Ricci ci dice adesso come sta andando la partita Inter-Bologna, vero Dario? Sì, sì, Roberta, preparatissima come sempre. Esame di maturità, dicevi, esame di maturità quello anche dell'Inter di Pioli, che dopo essersi ripresa in campionato cerca conferme in Coppa Italia, conferme che cerca anche Gabigol, schierato per la prima volta titolare. Finora quindicesimo di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Bologna a San Siro, partita tutta da vedere, direi. Grazie, allora tu vedila intanto Dario, poi ci racconti più tardi come procede. Intanto i vostri messaggi stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte, e al quale potete aderire sempre senza indugio, è al 349-238-6666, numero per sms e WhatsApp. Già state scrivendo per esempio sulla vicenda della sindaca Raggi e sulla decisione del Tribunale di Roma. Oggi dice questo ascoltatore o ascoltatrice, mettete almeno un nome d'arte: entusiasmo alle stelle, anzi alle 5 stelle, visto che il movimento conquista di fatto la poltrona più ambita e difficile d'Italia, andando a sfidare la gestione renziana di politica parsa in crisi in queste tornate amministrative. Non chiarissimo questo messaggio, pensateci un attimo prima di scrivere. Comunque si capisce l'entusiasmo per questa sentenza, che dice che in realtà ha respinto questo ricorso di un avvocato che diceva è ineleggibile perché ha firmato un contratto con dei privati. Invece il Tribunale di Roma ha respinto questo ricorso, ha detto no, era ed è eleggibile. Bene, poi invece Alessandra scrive a proposito del caso Cucchi: l'accusa per i carabinieri del commissariato Appia, primo soggiorno di Cucchi, tra virgolette, dice sì di omicidio, ma preterintenzionale è diverso, bisogna dirlo, mi pare che lo si sia detto e lo si dirà anche dopo. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, intanto aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E siamo insieme come sempre, tutte le sere, Roberta Giordano sempre con voi dalle 21 alle 22 in 60 minuti, l'aggiornamento su tutte le notizie principali della giornata, l'avete sentito in sintesi prima, poi in mano naturalmente se ci sono degli aggiornamenti ve li do, e cominciamo ad approfondire alcuni argomenti. C'è per esempio questa ascoltatrice, ascoltatore, dice Tajani mi sembra un giusto, io sono di sinistra ma Tajani ha detto che sarà il rappresentante di tutti, speriamo, dice. Questo tra l'altro ce lo auguriamo, ma diciamo è una frase che fa parte un po' della retorica di tutti quelli che vengono eletti presidente di qualsiasi paese o istituzione eccetera, tutti dicono naturalmente, e lo si spera che lo siano, sarò il presidente di tutti. Comunque, ora invece ci occuperemo soprattutto del maltempo, poi passeremo anche agli altri temi, mentre i vostri messaggi li potete continuare a mandare, sia al 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire, dico sempre, senza indugio. Per quanto riguarda la sindaca Raggi, che di martedì sulla 7 ha detto, dopo questa sentenza del Tribunale di Roma, che ha detto no, è eleggibile, quindi ha respinto il ricorso dell'avvocato che diceva se ha firmato un contratto non è eleggibile, dice la Raggi, io rivoterei la sindaca Raggi e soprattutto le darei la possibilità del tempo, possibilità che è stata data a tutti gli altri sindaci. Giorgio scrive, su questo ha ragione, è vero che tende a fare brutte figure a causa dell'inesperienza del suo stesso partito movimento, ma conoscendo quanto è venuto a Roma nei decenni passati le si può dare un po' più tempo. Bene, prendiamoci tempo anche per ricordarvi quali sono le notizie più importanti della giornata. Rigettato il ricorso sul contratto della Raggi con il Movimento 5 Stelle, era eleggibile, dice il Tribunale, la sindaca allora scrive tanto rumore per nulla. E poi lo avete sentito, la notizia che è arrivata all'inizio praticamente di Effetto Notte, Antonio Tajani è stato eletto nuovo presidente del Parlamento europeo. E a proposito di Europa, è arrivata la lettera all'Italia dell'Unione Europea che chiede una correzione dei conti pubblici del PIL da 0,2 punti, e il presidente della Repubblica Mattarella replica, però dice va bene, però bisogna usare lo stesso rigore anche sui migranti. E poi la svolta sul caso Cucchi, è morto per il pestaggio, così dice la procura di Roma che accusa i tre carabinieri di omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria dice finalmente la verità. E poi l'emergenza maltempo, di cui parleremo tra pochissimo, che colpisce soprattutto l'Abruzzo. E per quanto riguarda la Brexit, la prima ministra inglese Theresa May ha detto via dal mercato unico, costruiremo un paese più forte e anche metteranno dei limiti alla libera circolazione dei cittadini europei. Trump è il presidente eletto meno popolare secondo un sondaggio di cui abbiamo parlato anche nella sintesi della giornata. Lui dice però è truccato, e intanto a Davos c'è il forum della economia mondiale con il presidente cinese che difende la globalizzazione e dice no al protezionismo. E c'è questa novità per quanto riguarda la maturità: dal 2018 per l'ammissione basterà la media del 6. Quindi emergenza maltempo. In Abruzzo il maltempo sta causando nelle ultime ore i maggiori disagi, è stato addirittura deciso l'intervento dell'esercito, soprattutto sollecitato dai sindaci di Teramo e di Chieti, che sono le zone più colpite. Colpita anche la regione Marche, ma poi anche vento e neve sferzano la Toscana, il Piemonte, il Veneto, Friuli Venezia Giulia, buona parte del sud. In Puglia si registra anche una vittima, un uomo di 67 anni che è morto assiderato nella sua auto nel Brindisino. E il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso tra l'altro un'allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di domani nevicate su Umbria orientale, Marche, Abruzzo, Molise, con quota della neve al di sopra dei 100-300 metri, anche poi sulla Sardegna, Lazio orientale, Basilicata e Puglia, con la quota delle nevicate dai 400-600 metri. Però vi dicevo che appunto i disagi maggiori si registrano in Abruzzo, come ci confermerà Paolo Mastri, giornalista del Messaggero. Buonasera Paolo. Buonasera a te e a chi ci ascolta. Oggi sentivo di 300.000 persone addirittura senza elettricità, molte senza acqua, però l'Enel poco fa diceva per 100.000 utenze abbiamo ripristinato l'elettricità. Com'è, sì, com'è la situazione? Fino a un paio d'ore fa erano 400.000 gli abruzzesi, sono i residenti in Abruzzo, 400.000 è un terzo del totale della popolazione, che erano da 48 ore senza luce, che significa in queste circostanze essere anche senza impianto di riscaldamento. La situazione è stata piuttosto dura e è in via di miglioramento, ma è dura ancora adesso perché il tempo è brutto e le previsioni sono pessime. Sì, come appunto diceva il Dipartimento della Protezione Civile. Per quanto riguarda le strade e poi l'arrivo dell'esercito anche, Paolo, no? Adesso... Sì, la notizia di oggi è l'arrivo dell'esercito, che domani sarà a Chieti e sarà in provincia di Teramo ad Atri, che è un altro centro medio-grande, a Cellino Attanasio, ma ci sono Teramo Città e Lanciano che, come dire, si sono messe in lista di attesa. Per quanto riguarda, dicevamo, i disagi nelle strade, Paolo? La circolazione è molto difficile. Sulle autostrade, che sono A24, A25 e A14, riaperte da poco la A14 a metà giornata, c'è il divieto su molti tratti di circolazione dei mezzi pesanti, c'è il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle principali statali, la 16 che è l'Adriatica, la 5 che è la Tiburtina, insomma verso Roma, verso ovest, la statale 80 del Gran Sasso d'Italia, e sulle provinciali insomma neanche a parlarne, su molte tratte anche tangenziali di Pescara, raccordi autostradali, neve e ghiaccio hanno creato e stanno creando ancora problemi. Io mi fermerei qui, Paolo Mastri, poi naturalmente nei prossimi giorni ci aggiorneremo, perché come dicevamo, come dicevi anche tu, la situazione non volge per il momento al meglio, anche secondo il Dipartimento della Protezione Civile, anche delle Marche, no? Parlavamo anche lì difficoltà, ma soprattutto appunto è l'Abruzzo in questo momento. Grazie Paolo Mastri, giornalista del Messaggero. A te, buon lavoro. Adesso vorrei sentire invece qualche dichiarazione della sindaca Raggi che c'è adesso sulla 7 di martedì. Città, insieme a una squadra di consiglieri e di assessori, è per prima cosa un onore. Certo è una città difficile, ci sono responsabilità, le conoscevamo prima di candidarci e siamo comunque pronti a farcene carico come stiamo già facendo. Lei dice le conoscevamo perché si sente parte di un gruppo, perché è un gruppo che ora piano piano nell'intervista impareremo a conoscervi anche sì. Voi dei 5 Stelle di Roma, un gruppo che ha mostrato anche molte divisioni sul suo nome. Ma veramente, guardi, con i consiglieri e con gli assessori divisioni non ce ne sono, con gli altri membri del Movimento 5 Stelle divisioni non ce ne sono, c'è dibattito sicuramente, questo sì, ma divisioni non ce ne sono. Ci siamo tutti assunti un compito molto complesso, che è quello di guidare questa città che si trova in una situazione difficile ed è sotto gli occhi di tutti, guidarla per rinascere. E ciascuno di noi si sta facendo carico di un pezzetto di questa responsabilità. Quindi sicura di sé, l'abbiamo sentita in questo momento la sindaca Raggi, in particolare poi dopo questa sentenza del Tribunale di Roma. Adesso però ci spostiamo sullo spazio europeo. Europa 24 notte. E lo facciamo con Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao. Che prima ci ha anticipato l'elezione attesa del nuovo presidente del Parlamento europeo. È un italiano, Antonio Tajani. Tra l'altro, dicevamo, sono quasi 40 anni che non si parlava di un italiano alla presidenza del Parlamento europeo. Forse non è stato abbastanza ricordato, però è interessante notare che l'ultimo italiano fu Emilio Colombo nel 1979. E nel 1979 il Parlamento europeo non era ancora eletto direttamente dai cittadini, anzi Emilio Colombo fu l'ultimo presidente di un Parlamento europeo non direttamente eletto dai cittadini, quindi non con le elezioni europee come siamo ormai abituati ogni 5 anni a fare. Quindi Antonio Tajani è il primo presidente del Parlamento europeo italiano che viene eletto a capo di un Parlamento che è nominato dai cittadini con elezioni proprio a livello continentale. Quindi una cosa eccezionale, ma abbastanza eccezionale è stato anche il derby, nel senso che erano tra due italiani, quindi non era mai successo che un italiano, non credo neanche che fosse mai successo che ci fossero, giustamente, no, se non è mai stato eletto. Beh, un poi italiano, bisogna anche dire una cosa, si sfidavano lui e Pittella. Normalmente, almeno le ultime elezioni del Parlamento europeo erano sempre preconfezionate, bene o male, c'era un accordo tra le due grandi famiglie, i socialisti e i popolari, per spartirsi le presidenze di 2 anni e mezzo, accordo che c'è sempre stato e che vi è anche poi stata fatta un'eccezione con Martin Schulz, che ha sommato 2 presidenze di Parlamento europeo, perché fu deciso così quando Martin Schulz perse la corsa alla Commissione europea, che è vinta da Jean-Claude Juncker, per cui fu deciso questo. Però bene o male c'era sempre un accordo di spartizione tra le due famiglie. L'ultimo parlamentare esterno alle due famiglie che ha presieduto per 2 anni e mezzo il Parlamento europeo fu Pat Cox, però normalmente c'è questa alternanza, c'era bene o male questa alternanza. Quello che si è visto oggi invece è stata una vera e propria competizione, questo è stato sottolineato da più parti, cioè per 4 lunghissime estenuanti votazioni ci sono stati non solo Tajani e Pittella ma altri candidati di altre famiglie politiche. Chiaramente Tajani e Pittella erano sempre, come dire, i primi nei risultati parziali, però erano i favoriti, però nessuno dei due poi riusciva veramente a raggiungere la maggioranza assoluta, quindi la maggioranza più uno dei votanti, dei voti validi per poter poi effettivamente prevalere. Facciamo anche una piccola parentesi per dire che nella notte è stato anche una contesa molto strategica, politica, combattuta cercando di costruire alleanze. Nella notte c'è stato un accordo tra i popolari e il centrodestra, di Tajani e i liberali, per questo Guy Verhofstadt, già finito nel mirino e le critiche per quell'alleanza fallita con Grillo, si è quindi portato a casa una 70 su per giù di voti, però non li sono bastati per le prime 3 votazioni, perché si contava sui conservatori europei, che è la parte un po' più di destra, dove ci sono anche i Tories britannici, c'è cioè il partito della giustizia polacco e altri ancora, che però sostegno che è arrivato solo alla 4ª votazione, perché per le prime 3 i conservatori europei hanno votato la loro candidata, dicendo: beh, se si sono alleati con i liberali, che sono molto eurofili, insomma sono federalisti tendenzialmente, noi che siamo un po' più euroscettici non ci va bene. Poi alla fine, alla quarta votazione, quando la scelta era limitata a Tajani o Pittella, i conservatori europei hanno spostato i loro 70 voti, 74, su Tajani, e a quel punto non c'è stata veramente più partita. Sergio, abbiamo ancora diciamo un minuto, se ci fai un profilo un po' di questo... Prima però magari ascoltiamo la dichiarazione di Tajani che ha fatto poco fa. Sarò il presidente di tutti, rispetterò tutti i deputati, rispetterò tutti i gruppi. Grazie ancora per quello che avete fatto in questa giornata, partecipando a una grande competizione democratica. Domani mattina ricominceremo a lavorare insieme per il bene dei nostri concittadini. Questo diciamo è d'obbligo, no? Dire, dicevo prima, presidente di tutti, chiaramente poi uno si trova in... È interessante anche che ha dedicato la sua elezione ai terremotati italiani, questa è una cosa anche molto interessante, e a breve ci sarà anche una sua conferenza stampa. Chiedevi del profilo, abbiamo ancora tempo? Sì, brevissimamente, guarda Sergio. Allora, Tajani, ricordiamolo, è nel Parlamento europeo da moltissimi anni, da oltre 20 anni, è stato anche commissario europeo per 8 anni, è stato tra i fondatori di Forza Italia, arrivava da vicepresidente del Parlamento europeo e insomma nella sua vita precedente è stato sia nell'aeronautica sia giornalista e anche nel Partito Monarchico Italiano. Quindi una vita intensa. Una vita diciamo abbastanza intensa. Grazie Sergio Nava. Grazie. Ciao a voi. Sergio. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ora risentirei Virginia Raggi che sta parlando ancora di martedì sulla 7. Di quello che è stato scoperto dalla procura, di quello che sta avvenendo, se io potessi tornare indietro non lo rifarei. Detto questo, però, c'è questo fatto, c'è stato, questo capitolo si è chiuso, noi con anche caso con Marra, senso forse di responsabilità abbiamo sottoposto a verifica tutti gli atti e stiamo ultimando, abbiamo sottoposto a verifica tutti gli atti che Marra ha comunque firmato. Gli uffici, il segretariato, l'avvocatura. Cioè voi del comune. Gli uffici dell'amministrazione. Perché mi pare che Beppe Grillo vi abbia anche mandato due persone del partito per aiutarvi in questo processo. Intanto, attenzione, non è un partito, è un movimento. Sono due parlamentari che da anni si occupano di tutti i comuni nei quali governiamo e costituiscono un gruppo di supporto ai comuni. Insomma, diciamo, serena e sicura di sé, Virginia Raggi. Sulla 7 adesso ci prendiamo questa pausa. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure con il numero 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. I vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Abbiamo parlato dell'elezione a nuovo Presidente del Parlamento Europeo di Antonio Tajani e poi del maltempo che imperversa soprattutto in Abruzzo, nel centro-sud, ma diciamo i maggiori disagi in Abruzzo. Leggo questo messaggio di Nicola da Milano che dice: brava Ilaria Cucchi, la sua perseveranza ha sconfitto la violenza gratuita istituzionalizzata, basta con le mani addosso ai cittadini inermi o ai proiettili che colpiscono alla nuca anziché alle gomme delle vetture che forzano i blocchi. Tra pochissimo parleremo proprio della svolta nella vicenda Cucchi. Intanto, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo quali sono le notizie principali. Antonio Tajani eletto presidente del Parlamento europeo. Disagi per il maltempo, interviene anche l'esercito in Abruzzo, bloccato da ghiaccio e neve. Tecnici al lavoro sulla rete elettrica. Conti pubblici, è arrivata la lettera dell'Unione europea che chiede all'Italia una correzione da 0,2 punti. Mattarella commenta: bisogna usare lo stesso rigore anche sui migranti. Brexit, da 7 mesi dal referendum, il discorso programmatico della prima ministra Theresa May che dice divorzio netto dall'Unione europea e stop alla libera circolazione dei cittadini. La vicenda di Stefano Stefano Cucchi, ne parleremo tra pochi istanti. Roma, il Tribunale respinge il ricorso sul contratto della sindaca Virginia Raggi, era eleggibile e a di martedì dice di sé: io rivoterei la sindaca Raggi e soprattutto le darei la possibilità del tempo, possibilità che è stata data a tutti gli altri sindaci. Scioperi differito al 23 febbraio, lo sciopero nazionale di 4 ore di tutte le società e compagnie del trasporto aereo. Nuova maturità dal 2016 per la missione, basterà la media del 6, non più la sufficienza in tutte le materie come richiesto sino ad ora. Quindi dicevamo di questa importante novità sul caso di Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato nel 2009 per droga e poi morto una settimana dopo in ospedale. Dopo quasi 8 anni, 7 anni e mezzo di processi, consulenze, perizie per accertare la verità sulla sua morte, si torna a parlare di un violento pestaggio come causa principale del suo decesso, che nel corso di anni di indagine è stato di volta in volta attribuito all'inedia, all'epilessia, all'incuria del personale sanitario. Invece in questa inchiesta bis voluta dalla Procura di Roma, dal procuratore di Roma Pignatone, ritorna l'ipotesi del pestaggio e punta il dito sui carabinieri accusandoli di omicidio preterintenzionale. Ne parliamo con l'avvocato Fabio Anselmo, che è il legale della famiglia di Stefano Cucchi. Avvocato, buonasera. Buonasera a voi e grazie a voi. Quindi una novità importante, effettivamente una svolta questa dopo 7 anni. Beh, qualcosa. Sì. È una svolta, andando controcorrente direi che per noi era scontata, da quello che era emerso sia dalle carte dell'inchiesta prima dell'incidente probatorio, sia per quanto era emerso dalla perizia dell'incidente probatorio, che al di là di alcune considerazioni di carattere politico-giuridico che non spettavano certamente ai periti, le questioni tecnico-scientifiche puntavano il dito in questa direzione. Questo io mi aspettavo un capo di imputazione analogo. Certamente leggendo il capo di imputazione si capisce e traspare un'inchiesta estremamente precisa, estremamente puntuale, contenente ben più di quanto non possa essere compreso dalla lettura dei capi di imputazione. Noi siamo molto soddisfatti, siamo emozionati. 7 anni di lacrime, devo dire, di sofferenza, di lacrime, 7 anni di sacrifici, e io devo dire che la famiglia Cucchi va ringraziata perché per il suo impegno, che va a beneficio poi di tutti, un bel impegno, e per la sua fiducia nelle istituzioni. Una fiducia incrollabile che nemmeno le numerose sentenze, nemmeno anche l'andamento dei processi, poco rispettoso del loro dolore e soprattutto poco rispettoso della vittima, ha fatto, diciamo, vacillare e ha minato. Avvocato Anselmo, perdoni, farei sentire, l'ha intervistata la nostra collega Raffaella Calandra, proprio Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che appunto non si è mai arresa. Sentiamo che cosa dice a proposito di questa svolta e anche di un carabiniere che avrebbe detto: questo è un attacco all'arma. Sentiamo. La prima volta in questa vicenda entra la verità. Oggi si parla di omicidio, si parla di calunnia. Vediamo scritta nero su bianco una realtà sconcertante che per 7 lunghissimi anni era stata negata in tutte le maniere. Era una di quelle morti destinata probabilmente a rimanere senza risposta. Stefano Cucchi, che era morto di indifferenza, era morto di violenza, ma era morto anche di giustizia. E ecco, per Stefano Cucchi esiste giustizia, dicendo che anche per gli ultimi può esistere la giustizia. Lei aveva incontrato il procuratore Pignatone proprio quando c'erano state le assoluzioni? Ha fatto un lavoro enorme, la verità l'ha ricercata a 360 gradi. Io non ho mai smesso di credere nella giustizia. Uno dei carabinieri indagati ora su Facebook parla di attacco all'arma. Io ho profondo rispetto, molto più rispetto io per quelle divise di coloro chiaramente che le infangano. Rimango perplessa quando si mette in piedi il spirito di corpo, che per famiglie come la mia è devastante. Questa appunto Ilaria Cucchi. Vedo un messaggio di Paolo che dice: caso Cucchi, le sentenze vanno rispettate, se hanno sbagliato i carabinieri pagheranno, ma generalizzare sulle forze dell'ordine non è giusto, ci tutelano, dice Paolo, nessuno generalizza. Comunque poi un altro ascoltatore o ascoltatrice dice: Cucchi, vorrei una sorella o un fratello così grandissimo, i carabinieri pensano di essere intoccabili. Per chiudere, avvocato Anselmo, tra l'altro finora i carabinieri erano rimasti fuori, no? Mi sembra, dalle inchieste e dai processi, perché di volta in volta erano stati accusati e assolti i medici, infermieri e guardie penitenziarie, no? erano rimasti fuori anche alla luce delle deposizioni rese sia da coloro che oggi sono accusati materialmente del pestaggio, sia dai superiori, da coloro che viceversa, pur non avendo partecipato al pestaggio, avrebbero riferito falsità che avrebbero consentito di rimanerne fuori. E questi sono reati molto gravi, e questi sono reati che mettono in dubbio la credibilità, diciamo, dei pubblici ufficiali. Infatti la famiglia Cucchi, come nessuno di noi, ha mai generalizzato, però questi fatti parlano chiaro. Ora che succede, avvocato Anselmo? Ma adesso, diciamo, decorreranno i 20 giorni canonici di tempo per i difensori per esaminare le carte e fare, diciamo, le loro osservazioni, e poi dopo la procura, diciamo, ci si aspetta, noi ci aspettiamo che chieda la fissazione dell'udienza preliminare per il rinvio a giudizio. Avvocato Fabio Anselmo, intanto la ringrazio e buona continuazione per voi allora. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Grazie. Buonasera. Direi che possiamo sentire ancora un istante la sindaca Raggi, vediamo di martedì. Amministrazione. Tra l'altro le ricordo per che una connivenza almeno è l'accusa. Io poi le ricordo si che a settembre, quando abbiamo fatto una richiesta di vari certificati dei dirigenti, lui risultava completamente pulito, attenzione, quindi anche questo. Beh, c'è una differenza tra forma e sostanza ancora che in genere del caso Marra. Ci fermiamo politico. Qui temporaneamente per aggiornare giusto chi viaggia e ritorniamo tra pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo sempre Roberta Giordano con voi, ancora visto che è un evento un po' eccezionale, la sindaca Virginia Raggi è sulla 7, stiamo con questa decisione di questo momento. Non è un caso specifico, ma l'abbiamo sempre detto. Se l'accusano di aver fatto delle nomine. Ma perché in stiamo parlando delle ipotesi? Possiamo. Perché, diciamo, cioè, siamo giornalisti. Le chiede Floris se dovesse essere indagata, insomma. E lei dice: vai, leggerò le carte e vedremo. Adesso invece vi ricordo molto velocemente quali sono le notizie principali della giornata: l'elezione a nuovo presidente del Parlamento europeo di un italiano dopo 38 anni, Antonio Tajani. E poi è stato rigettato, a proposito della sindaca Raggi, il ricorso sul contratto e sulla sua ineleggibilità. Quindi risulta eleggibile la sindaca, e lei dice tanto rumore per nulla. Poi è arrivata la lettera dell'Unione Europea all'Italia che chiede una correzione dei conti pubblici da 0,2 punti. Il Presidente della Repubblica Mattarella però replica: bisogna usare lo stesso rigore anche sui migranti. Sul caso Cucchi ne abbiamo appena parlato, è morto per il pestaggio secondo la Procura di Roma, che accusa i tre carabinieri di omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria dice: finalmente la verità. E poi l'emergenza maltempo che colpisce soprattutto l'Abruzzo, tanto che la ministra Pinotti manda l'esercito, ci sono in 5.000 senza acqua e 100.000, 200.000 famiglie anche senza elettricità, le città bloccate dalla neve. Per quanto riguarda la Brexit, la prima ministra May ha detto via dal mercato unico, oggi ha fatto il suo discorso programmatico, costruiremo un paese più forte, limiti anche alla libera circolazione degli europei. E adesso parliamo invece appunto di questo ricorso rigettato nei confronti dell'eleggibilità della sindaca Raggi. Ce ne parla Alessandra Schepisi, la nostra Alessandra Schepisi da Roma. Ciao Alessandra. Sì, ciao Roberta. La sentivamo proprio adesso, no? Sulla 7. Sentiamo con un istante cosa sta dicendo in questo momento. Abbiamo messi due assessori, li abbiamo sostituiti. Ma quanti sindaci? Parlando, insomma, di tutto quello che è successo nella giunta, un po' di caos, diciamo, dall'inizio. Adesso questa sentenza che la rende un po' più serena, Alessandra, no? Sicuramente la rende più serena. Tra l'altro questa sentenza è arrivata pochi minuti prima della sua intervista sulla 7, quindi insomma appare particolarmente sorridente oggi, sì, la sindaca. Notavamo serena e sicura di sé, no? Ecco, quindi è un punto decisamente a favore della Raggi e dei 5 Stelle, quello che appunto viene segnato oggi con questa sentenza del Tribunale Civile di Roma. In giudici, in sostanza, cosa hanno fatto? Hanno respinto il ricorso presentato dalla senatrice Dem Monica Cirinnà attraverso l'avvocato Venerando Monello, in cui si chiedeva di dichiarare nullo il contratto sul codice etico dei 5 Stelle, quello firmato da Raggi in campagna elettorale e di conseguenza ineleggibile primo cittadino. cittadino, un contratto in cui ad esempio si chiedeva il rispetto del programma, si stabilivano le modalità di comunicazione, oppure si chiedeva di sottoporre gli atti al parere preventivo dello staff pentastellato, e un contratto soprattutto che stabilisce in caso di violazione una penale di 150.000 euro, e i ricorrenti dicevano che in questo modo si violavano alcuni cardini costituzionali come l'assenza del vincolo di mandato. Secondo i legali del sindaco invece il ricorso era fondato su motivazioni politiche e non giuridiche. La sentenza del tribunale dà ragione invece alla Raggi, il contratto è valido e il sindaco deve in sostanza restare al suo posto perché è eleggibile, e il ricorso è inammissibile perché la sottoscrizione del contratto non rientra tra i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, insomma una questione tecnica, ma di fatto insomma viene data ragione ai legali del sindaco. E poi si dice anche che questo avvocato, l'avvocato Monello, non è titolare di un interesse ad agire in quanto è un soggetto estraneo al Movimento 5 Stelle, e quindi poi viene anche condannato al pagamento di 12.000 euro di spese legali. Esultano naturalmente tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle, la Raggi dice tanto rumore per nulla, dopo la batosta elettorale a Roma il PD ne subisce un'altra in tribunale. E poi appunto da Floris precisa, voi lo chiamate contratto ma in realtà è un impegno nei confronti degli elettori contro i cambi di casacca, contro lo stravolgimento delle idee politiche che noi abbiamo da sempre denunciato, mentre Davide Casaleggio smentisce l'esistenza di qualsiasi contratto con la Casaleggio Associati. Dice sono mesi che si favoleggia e si martella con l'idea di qualche misterioso potere di una società privata che decide per la città di Roma, dice, ma non è così. Non c'è nessun contratto, così ha detto Davide Casaleggio. Grazie Alessandra Schepisi. Ciao Alessandra. Grazie, ciao. Ciao. Ora invece ci aggiorna il nostro Dario Ricci su dove vola la palla tra Inter e Bologna, verso quale direzione? Forte, forte, simpatica questa definizione. Beh, finora partita interessante, è finito da poco il primo tempo, Inter in vantaggio per 2-1, partita che sembrava chiusa già al 40esimo perché l'Inter era in vantaggio per 2-0 al 33esimo, una splendida rovesciata al volo di uno dei protagonisti più inattesi per un gesto tecnico del genere, il difensore Murillo, una vera e propria bicicletta, Roberta, all'altezza del dischetto, e 1-0 dell'Inter, al 39esimo il raddoppio di Palacio con un preciso diagonale, Inter che sembrava aver chiuso la partita, ma al 43esimo è arrivato il gol dei Felsini con Zemaili, un tiro deviato da Condogbia alle spalle del portiere nerazzurro Carrizzo, quindi 2-1 il parziale del primo tempo. Grazie Dario Ricci, e su questo risultato ci lasciamo brevemente, poi vi riaggiorno alle 22.